galena fregia e un fantasma in sulla veranda. Barbera come petroli e anche alla luna mi par che sbanda. Cadrega che fa frecas e buca verta che disnagot. Tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensieri fanno un gran casot. Le menga vera che nel silenzio dorma tu ma la malinconia. Le menga vera che in tu scanel, le menga bonde fa una poesia. In questa stanza senza orologi balla la fata, balla la stria. In questo sit senza la luce che di sti cos le du malumbria. Sculta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula in braccio una sporta e ti scacca dentro un bel regal. Mi sa che l'è il solito temporal. Sculta i spiriti, sculta i fulet, rampeghen in sul muro i sol tempo del cassette. Canso i vestiti e quan si ripenen ne vani ne fegnen punta il bicer del vento. E la candela la sta mai ferma, la se muove come la memoria. E anche il ragno e la balaustra ricama il quadro della sua storia. La ragnatela di me pensi, la c'ha patut quel che riuscì. Ma tanti volla che troppi baci e le tuta de rammenda. La finestra la sbatti al, ma la sa che può me anna via. E stelgan la faccia all'ustra, con mia della nostalgia. In questa stanza senza nessun, guardi lontano e se vedi in faccia. In questa stanza d'inoltro tempo, i miei fantasmi lassen la traccia. Ascolta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula in braccio una sporta. E il disco che ha dentro un bel regal, e sa che l'è il solito temporal. Ascolta i spiriti, ascolta i fulet, trampeghen in sul muro i sol tempo del cassette. Canso i vestiti e quan si ripenen, ne vani ne venien. Conta il piacere del vento.